24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 17 minuti, 11 secondi, inizia la terza parte di 24 Mattino. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno Maria Latella, ciao. Buongiorno, eccoci. Simone, buongiorno a tutti. Eccoci, ci potete raggiungere al 349-238-6666 per gli sms e i messaggi su WhatsApp, anche audio ovviamente, per far sentire la vostra voce. Diteci un po' che cosa ne pensate ai fatti di questa giornata. Giornata ovviamente ancora dominata dalla questione del coronavirus, questione che affronteremo un po' lateralmente ma nemmeno troppo, perché tanto si è parlato nelle scorse ore dello Spallanzani che ha isolato non per primo il coronavirus, delle ricercatrici, della condizione di una di queste ricercatrici, precaria a 1500 euro al mese e subitamente assunta, per fortuna. Sì, ovviamente, se tutte le volte che bisogna essere assunti per, bisogna isolare un virus, è successo, una buona cosa. E ne parleremo, e parleremo esattamente di ricerca, dello stato della ricerca in Italia, dei finanziamenti, di come siamo messi effettivamente. Quindi aspettiamo le vostre voci, anche quelle dei tanti ricercatori che sappiamo, certo, che ci ascoltano e che sono all'ascolto e che spesso lamentano ovviamente la loro condizione. Oh, a proposito, Maria, scusami, delle interviste che ho visto a queste ricercatrici, a parte i titoli strappalacrime, gli angeli della ricerca. No, io non sopporto la retorica. E poi quella cosa terrificante per cui come fa a conciliare famiglia e lavoro? Ma come vuoi, allora, che faccia? Come tutti! C'è un grande manager italiano, Vittorio Colao, che è stato l'amministratore delegato di Vodafone Mondo, che in un incontro anni fa, mi pare proprio in occasione dell'8 marzo, disse: vorrei abolire la domanda che molte giornaliste donne o uomini pongono a altre donne, è come fa a conciliare famiglia e lavoro. È una domanda che va abolita, però diciamo una cosa: queste ricercatrici sono state molto brave, negli uomini, perché io lo voglio prendere come esempio di una bella collaborazione, certo, tra uomo e donna. Mentre però, Simone, lasciami dire che sul tema dello scontro tra donne c'è una cosa molto interessante, perché ieri 17 parlamentari donne hanno scritto alla ministra della pari opportunità, Elena Bonetti, per dirle: oh, datti una mossa, non stai facendo praticamente niente, più impegno sulle politiche di genere, hanno detto. E che cosa lamentano queste 17 firmatarie, tra cui ci sono, lo ricordo, anche per esempio Anna Ascani, esponente del PD, ma che era molto vicina a Renzi prima. Loro dicono che di fatto non c'è stata nessuna vera forte presenza di questo ministero, che purtroppo da anni è considerato un po' cenerentola. C'è stato un botte e risposta molto, molto duro tra le parlamentari, ne cito altre: Francesca Puglisi, Lorenza Bonaccorti, Anna Rossomando. Dicono: non state facendo niente. Reazione violenta dall'altra parte, con Maria Elena Boschi che ha detto che ha attaccato duramente. Cosa dicono in sostanza queste parlamentari? Beh, ti stai occupando un po' troppo del dossier famiglia in generale, mentre invece dovresti occuparti anche di donne, a partire dal tema della violenza di genere. Violenza di genere che ieri, io non so se hai visto Sanremo, Maria, mi pare di no. No, ero a cena con degli amici che non vedevo da molto tempo. E quindi giustamente hai preferito la compagnia degli amici, come è giusto che sia. Ieri il monologo di Rula Gebreal si è concentrato esattamente sulla violenza di genere, raccontando, tra l'altro, e la cosa che ha colpito un po' tutti, raccontando il caso di sua madre. Sentiamo. Che tutti chiamavano Nadia, ha perso il suo ultimo treno quando io avevo 5 anni, si è suicidata dandosi fuoco, ma il dolore era una fiamma lenta che aveva cominciato a salire, ad annerirgli i vestiti quando era solo un adolescente. Il suo corpo era qualcosa di cui voleva liberarsi. Era stato il luogo della sua tortura. Perché mia madre Nadia fu brutalizzata e stuprata 2 volte. A 13 anni da un uomo, poi da un sistema che l'ha costretto al silenzio. che non l'ha consentito di denunciare, perché le ferite sanguinano molto di più quando non si è creduto. L'uomo che l'ha violentata per anni, il cui ricordo incancellabile era con lei mentre le fiamme ne divoravano il suo corpo, aveva le chiavi di casa. Insomma, questo è un racconto molto doloroso della fine della madre, che appunto finisce per darsi fuoco dopo essere stata stuprata a partire dai 13 anni. Insomma, è un elemento che tra qualche ascoltatore dice: no, basta Sanremo, anche qua basta. No, ma io penso che ci sono delle storie molto dolorose, purtroppo tuttora molto vicine anche a noi. Penso che su quel palco, Simone, se posso dirla tutta, e debitamente oscurati perché sono minori, avrei voluto invece ascoltare la testimonianza dei figli di donne uccise dai loro mariti o di madri e padri che io ho incontrato e il cui dolore è ancora negli occhi, che hanno avuto le loro figlie uccise dai compagni. E forse, non lo so, queste persone, questi bambini, questi ragazzi vivono ogni giorno il loro dolore. Capisco, Sanremo uno spettacolo, per carità, c'è bisogno, però sì, francamente... È chiaro che è un'altra cosa, no? Cioè non puoi chiedere a una manifestazione come Sanremo, certo, di fare un lavoro che è un lavoro, sì, alla fine di cronaca, qual è un racconto, no, di cronaca. No, ma qual è il senso di avere una persona che appunto racconta, per carità, una tragedia familiare... forse si può, è cronaca anche quella, e allora per un attimo magari meno jet set, meno lustrini, meno collegamenti anche con un mondo hollywoodiano, Harvey Weinstein eccetera eccetera, magari un pezzettino di realtà. Però ormai è andata così, e tu lo vedrai Sanremo? Tutte le sere. Tutte le sere fino a una certa... Ieri sono arrivato, lo dico per chi l'ha visto, sono arrivato fino alle vibrazioni, poi alle 10:30 non ho retto più, sono andato a letto, perché comunque qua tocca star presto, si inizia alle 6:30. Che cosa abbiamo di altro? Cosa abbiamo di altro da questa giornata? Forse abbiamo ancora Trump da qualche parte sul quale possiamo dire due parole. Questo gesto, Maria, voglio commentarlo anche con te. Ne abbiamo parlato prima con Paolo Mieli, però insomma, un gesto eclatante quello di Nancy Pelosi. L'audio, sentiamo un po' di audio, va. My fellow Americans, the best is yet to come. Thank you, God bless you, and God bless America. Thank you very much. E forse ci sembra anche di intrasentire, non so se è un'illusione perché le immagini le abbiamo viste, il rumore di Nancy Pelosi che alle spalle di Donald Trump prende il discorso del presidente appena lui l'ha finito e lo strappa. Posso dire che io mi sono rotta troppo, le forse. Palle di tutta questa politica spettacolo, che non ne posso più, né di Nancy Pelosi che strappa il discorso, e che palle, era tutto è tutto finto, ma smettessero di pensare sempre ai gesti eclatanti. Fammi dire un'altra cosa. The best is yet to come era lo slogan scelto da Barack Obama. Allora, se proprio si devono inventare, ed è giusto che sia così, dei claim, come si dice in pubblicità, che entrano nella mente, ma ne cercassero di nuovo, che fai, ti impadronisci di quello che ti ha preceduto. E comunque la mia sensazione, quel gesto del strappare il discorso, a parte il fatto che quello è il tuo presidente, è il presidente degli Stati Uniti, e comunque gli devi rispetto, primo. Secondo, e basta, ma che è la politica o è appunto X Factor con Mara Maionchi che dice esci fuori, ma che è Masterchef? Non ne posso più. Guarda, devo dirti non mi ha convinto nemmeno a me questo gesto, mi ha ricordato adesso. Guardate, mutate le cose. Come si chiama il leghista, quello che ha preso, si è tolto la scarpa e ha iniziato a picchiare sul discorso di Juncker. No, certe cose le poteva fare soltanto Khrushchev alle Nazioni Unite. Quello che però era legittimo. Quella era una cosa diversa. E poi comunque era Khrushchev. Sotto quel livello, no, grazie. No. Fate i politici e non fate gli showman o gli showgirl. Tra l'altro, appunto, con un ruolo istituzionale, la speaker della Camera. Andiamo un po' in anticipo, direi, caro Carmelo Lauricella, alla pausa. Perché così diamo tutto lo spazio possibile per parlare di un tema fondamentale, che è appunto quello della ricerca. Tra poco. Mattino. E dunque di ricerca parliamo adesso. Come diciamo prima, abbiamo preso un po' le mosse da un argomento di attualità, ossia il coronavirus, quello che è successo allo Spallanzani e che abbiamo ampiamente raccontato, per tornare un po' su questa questione che è stata sottolineata nelle scorse ore, qualche giornale ci sta facendo una battaglia. Dunque, Elena Cattaneo, senatrice, professore ordinario all'Università degli Studi di Milano, dove dirige il laboratorio di biologia delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neurodegenerative, tante cose, una delle nostre scienziate più importanti. Elena Cattaneo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Sergio Bertolucci, ex direttore del CERN e ora all'Università di Bologna. Bertolucci, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prego Maria, inizia tu, vai. Allora, buongiorno senatrice, buongiorno professor Bertolucci. La prima domanda è proprio per Elena Cattaneo. Lei sul Messaggero ha scritto un bell'articolo sullo stato di salute della ricerca nel nostro paese e della considerazione che alla ricerca viene attribuita. E ha detto: in tempo di pace, lontani dalle crisi sanitarie, ci sono sempre mille pensosi di stinguo, e la ricerca che fa la sperimentazione sui macachi e tutti i vari distinguo che si fanno. Poi in tempo di guerra, cioè quando arrivano le epidemie, si dice: beh no, la ricerca è fondamentale. Le chiedo, si parla spesso di risorse, ma a parte le risorse, di cui magari parleremo anche dopo col professor Bertolucci, di che cosa ha bisogno il sistema di ricerca italiano per godere di maggiore considerazione? Ma ha bisogno essenzialmente di riconoscimento. Cioè dobbiamo capire che se vogliamo conoscere quel che succede intorno a noi, affrontare malattie, affrontare epidemie, capire come si diffonde un virus, dobbiamo renderci conto che il nostro unico metodo è quello scientifico, quindi dobbiamo prepararci per essere pronti nel momento della necessità, quindi dobbiamo studiare, quindi dobbiamo investire i nostri giovani, dobbiamo investire nei nostri dottorandi, dobbiamo investire negli specializzandi, non dobbiamo farli fuggire. I precari ai quali ci rivolgiamo nel momento in cui abbiamo una malattia, e magari sono medici che hanno 40 anni e tanti anni quindi di esperienza, insomma fa un po' senso rivolgerci a queste competenze, no, che poi abbandoniamo così nella precarietà, però ci rivolgiamo a loro nel momento in cui siamo in difficoltà. E nei momenti in cui siamo in difficoltà, ma la storia è una sola, non ci sono alternative, non ci sono oracoli a cui rivolgerci, non ci sono pozioni magiche, no, da portare sul tavolo. Abbiamo bisogno dei fatti, abbiamo bisogno dei dati, abbiamo bisogno di coloro che li sanno studiare, capire per tutti noi. Quindi va riconosciuto in epoca di pace che questo percorso è assolutamente indispensabile, partendo dalla ricerca di base. Partendo, come nel caso di questo virus, se ci pensate, dal fatto che lo Spallanzani e quei ricercatori non è che con un click hanno identificato il genoma del virus, eccetera, ma si erano preparati decenni prima, cioè sono anni che quelle persone e anche altri in altre istituzioni si preparano per essere pronti per noi, e noi godiamo, no, di tutto questo vantaggio, senza sapere che poi appunto in realtà in epoca di pace li abbandoniamo al loro destino e ahimè tante volte li perdiamo. Cattaneo, prima di andare dal professor Bertolucci, ma è un tema di precarietà o un tema di quanti quattrini diamo a queste persone? È un tema totale entrambe le questioni, quindi insomma, la ricerca e la medicina hanno bisogno di stabilità nel tempo, no? Quindi vuoi trattenere le persone, vuoi trattenere i migliori, no? Perché è difficile quel che fanno questi studiosi, questi ricercatori, non si scopre dall'oggi al domani, no? Serve un'enorme continua competenza. E poi insomma fa un po' senso certamente pensare che ci rivolgiamo a questi specialisti sospesi nel nulla, e poi scopriamo che magari il loro stipendio è 1500 euro al mese e fanno le notti a ricercare per tutti noi, perché loro sono competenti fuori da lì, certo, fuori dalle nostre istituzioni. No, non solo, ma per far ricerca, perché questo va detto chiaro, non è che le nostre istituzioni, cioè io faccio parte dell'università, i ricercatori del CNR, quelli delle Spallanzani, non è che arrivano da queste istituzioni automaticamente soldi per ricercare. Ciascun ricercatore si vince su base competitiva le risorse per agguerrirsi, per capire, per studiare, ma se quelle risorse non vengono messe a bando, quindi se un governo d'altro non riconoscono la necessità di finanziare continuativamente su base competitiva la ricerca in tutte le sue declinazioni, e se abbiamo precari, pagati poco, a cui non mettiamo a disposizione risorse per ricercare, e poi ci stupiamo che non restino. Questo è anche vero, senatrice. Vorrei andare però dal professor Bertolucci, che dopo essere stato a lungo al CERN è ora all'Università di Bologna. Ci sono dei lati positivi nella ricerca? Noi ce ne siamo accorti tutte le volte in cui un nostro ricercatore ha fatto qualcosa di clamoroso e di apprezzato in tutto il mondo, ma nel day by day che cosa possiamo considerare positivo, tenuto anche conto del fatto che il ministro per l'università e la ricerca, Gaetano Manfredi, neo ministro, la prima cosa che ha detto è dobbiamo riportare in campo i giocatori migliori e, aggiungo io, anche selezionarli per merito, perché anche negli istituti di ricerca forse c'è un po' di nepotismo. Però le stavo chiedendo the bright side, il lato positivo, non quello oscuro. Il bright side è un tipico miracolo italiano. Se lei pensa al fatto che è stato disinvestito sulla scuola e sulla ricerca in maniera consistente attraverso tutti i possibili governi e tutte le possibili dichiarazioni, il fatto che i nostri ricercatori siano ancora bravi e apprezzati in tutto il mondo è un tipico esempio di miracolo italiano, per cui da questo punto di vista i nostri ricercatori, i nostri giovani si difendono ancora in Italia e all'estero come leoni, perché ovunque vanno sono apprezzati, tant'è vero che ne esportiamo migliaia ogni anno verso paesi in genere anche più ricchi e più attenti. Quello che manca, come diceva la professoressa Cattaneo, è la visione e il ruolo sociale che ha l'educazione e poi di conseguenza la ricerca nella società italiana. Per cui, sino che dura, noi possiamo continuare a avere queste eccellenze, eccellenze che sono testimoniate in tutti i campi. Ricordo che il direttore generale del CERN adesso è Fabiola Gianotti, che è una nostra tipica eccellenza esportata in questo fuori dall'Italia, anche se il CERN è un po' di tutti, e da tutte le parti dove io ho svolto la mia carriera ho trovato persone, ricercatori italiani, giovani e meno giovani, che hanno ruoli fondamentali. Quanto può durare questo? Può durare anche poco, perché se uno incomincia a seccare il fiume dalla fonte, se uno non rinuncia a un sistema educativo o investe meno in un sistema educativo, piano piano questo fiume si seccherà, e questo è strategicamente un disastro. Per di più, il problema della ricerca è un problema complesso, e come tutti i problemi complessi spesso la tentazione è quella di trovare una soluzione semplice, elegante e sbagliata. È un problema complesso perché è un problema strategico, e non è strategico soltanto per l'Italia, è strategico in generale per l'Europa, per cui... Però io penso che adesso noi vorremmo sapere, vero Simone, tutto quello che loro due, Cattaneo e Bertolucci, pensano del coronavirus. questa è la verità adesso. No, vabbè, io mi dichiaro felicemente incompetente da questo punto di vista. Oh, che bello. Che bello. No, guardi, professor Bertolucci, è talmente bella questa cosa. Invece Elena Cattaneo incompetente non lo è su questa vicenda, no, naturalmente. Senatrice, che dice? Beh, io non sono virologa. No, certo, no, ovviamente. Quello che mi sento di dire è che abbiamo persone competenti in Italia, no? Abbiamo istituzioni competenti, abbiamo un Ministero della Salute che mette in atto delle regole, delle procedure, no, per affrontare. Quindi non siamo a digiuno. E mi piace quello che è stato detto prima, no, sull'idea, cioè, del miracolo italiano, perché è esattamente così. Noi non ci rendiamo conto, e questo mi fa soffrire molto, i cittadini non si rendono conto di quanto sia straordinario sia il nostro sistema formativo. Anche questo non so per quanto durerà, perché la scuola va alimentata a partire dalle elementari, quanto dalle scuole elementari, quanto straordinario sia il nostro sistema formativo, che porta in tutta la penisola alla crescita di eccellenze che sono diffuse. Quindi oggi è il genoma del coronavirus sequenziato prima di tutti gli altri, sì, oppure insieme ai cinesi, domani è la partecipazione alla scoperta delle onde gravitazionali, dopodomani sarà il genome editing, ma l'Italia partecipa in modo straordinario alla crescita culturale e scientifica dell'Europa e del mondo. Quindi noi, dentro le istituzioni di ricerca, università o enti di ricerca, non abbiamo paura. Noi non abbiamo paura di affrontare cose difficili, cose che nessuno capisce, cose che nessuno ha mai scoperto prima. Noi siamo allenati a fare questo. E guardate che basterebbe veramente un'iniezione di più fiducia e risorse, una maggior considerazione di quanta fatica facciano questi ricercatori per scoprire tutte queste cose. Guardi, senatrice, mi permetto di interromperla solamente perché poi adesso vorrei far sentire anche un paio di WhatsApp che ci sono arrivati dagli ascoltatori. Nel frattempo ve ne leggo uno che dice: banalmente a noi in laboratorio veniva insegnato a far durare tutto il materiale al massimo possibile, facendo lavaggi, riabilitando molecole, mai comprando reagenti pronti quando potevano essere fatti da noi in laboratorio. Siamo dei fenomeni ad avere certi risultati con i quattro soldi che ci danno. Non è solo questione di stipendi, ma di materiale effettivo col quale lavorare. È quello che ci diceva un po' lei, senatrice, no? Sì. No, guarda, a me ogni tanto piacerebbe che i cittadini potessero affiancarsi ai nostri ricercatori per una giornata a vedere che cose incredibili in mani riescono a fare. E quanti risultati riescono a conquistare? Noi non riusciamo a far vedere le immagini, potrebbe, però facciamo sentire le vostre voci. Esatto, però potrebbe essere un bel format questo qua, sì. Senatrice Cattaneo. Adesso che ci ha dato l'idea, una riflessione ce la facciamo. Le vostre voci, via. Ragazzi, non c'è bisogno della sfera di cristallo per sapere e capire che purtroppo la ricerca in Italia, come lo studio, è declassata da questa classe dirigente che non vale un soldo. Mia figlia medico, dopo 5 anni più la specialità, ha lavorato per 8 anni come libero professionista presso un grande ospedale pubblico di Milano. È stata assunta a tempo indeterminato grazie a un concorso 8 anni dopo. Vabbè, questo è il caso di un medico, ovviamente è una cosa parzialmente diversa, ma in realtà è la storia, il racconto, no, anche di molti altri ricercatori. Quanto conta, professor Bertolucci, lei che adesso è tornato in università, quanto conta un sistema universitario che è a volte respingente proprio per le sue strutture interne? Dico, a prescindere, no, da tutte le questioni, tutti i ragionamenti che ci siamo fatti, sì, servono più soldi, serve maggior riconoscimento alla ricerca, forse servono anche professori che valutino i ricercatori, cioè chi guida i team di ricerca, che li valutino per quello che sono, che non si sentano messi in ombra da questi ricercatori. Insomma, la dico brutale, parliamo un po' di baronato, professore. Ma io credo che il baronato di sicuro esiste, non è secondo me il problema principale. Il panorama della ricerca in Italia è molto variegato, e nei posti dove, nelle scienze dove essenzialmente abbiamo delle eccellenze, E il fatto che si lavori attraverso questo modello che, come diceva Rena Cattaneo, è basato sulla collaborazione e la competizione. Abbiamo persino inventato un termine per quello che la chiamiamo co-petition. Si lavora insieme perché se non si lavora insieme non si riesce a avere risultati, si compete perché se non si compete non si riesce a avere risultati. E porta una specie procedura di autosterilizzazione, diciamo, perché alla fine non si comanda per autorità, ma si comanda per autorevolezza. Le persone più giovani e più brillanti non sono disposte a seguire in molte delle nostre discipline soltanto, diciamo, l'ordine di beccata. Per cui, secondo me, non è il problema fondamentale. È forse più vero in certi settori che in altri, ma tutte le volte che si parla di ricerca di base e di ricerca competitiva, io non lo vedo come un problema principale. C'è Cattaneo, parlo in questo caso proprio anche alla senatrice, oltre che alla scienziata. C'è un po' di polemica questa mattina anche sui quotidiani per il fatto che l'Italia ha sospeso tutti i voli da e per la Cina. E questo creerà forse delle difficoltà significative per gli italiani che sono ancora lì e che magari vorrebbero tornare. I voli sono adesso costosissimi e sono anche pochi. Secondo lei ha fatto bene il governo italiano, segnatamente il ministro della Salute Speranza, a disporre questa misura così draconiana, visto che alcuni altri paesi non l'hanno perseguita? Ha fatto bene o ha fatto male? Guardi, lei mi mette in capo troppe competenze che io non ho. Non mi sento assolutamente in grado di rispondere. Quello che possiamo fare è fidarci delle istituzioni. E se non ci vogliamo fidare, raccogliamo gli elementi per non fidarci. Ma insomma, non è che possiamo esprimere opinioni in modo così generico, no, su argomenti seri e su decisioni che, insomma, mi auguro abbiano delle basi. Allora facciamo così, senatrice, la tolgo dall'imbarazzo e le giro la domanda che ho girato al professor Bertolucci, sulla quale devo dire ci stanno arrivando parecchi messaggi degli ascoltatori. Esattamente questo: quant'è respingente il sistema universitario italiano nei confronti di chi fa il ricercatore? Cioè, uno dei motivi di fuga, spesso ce lo raccontano le persone che ci chiamano, non è solo il fatto del precariato, non è solo il fatto del sono pagato poco, ma proprio il fatto di non essere valorizzato, cioè di entrare in un'equipe nella quale c'è un dominatore assoluto e tu sei là e ti limiti a portare acqua al suo mulino, a prescindere dalla qualità scientifica. Senz'altro casi e situazioni del genere, ma mi viene da dire ci saranno in tutti gli ambiti lavorativi. Mi aspetto. Quello che mi sento da dire, sono d'accordo con il professor Bertolucci, ciascuno si rimbocchi le maniche e se sente di non essere stato, di non essere valorizzato, di essere sminuito nelle proprie competenze e nelle proprie capacità, utilizzi tutti gli strumenti democratici disponibili per vincere quel pezzo di strada. Cioè, il concetto è che se ciascuno non lotta per garantire a se stesso la libertà, no? Quella libertà che ha sposato di studiare e di ricercare, cioè se uno non fa questo passo, aspettando, ovvio, la situazione ideale sarebbe che gli venga garantita dagli altri, ma supponiamo che siamo di fronte in un caso in cui ciò non avviene, se non sei pronto a lottare per te, per questa libertà, non sarei pronto ad andare per la libertà di nessuno. Quindi quel passo, che poi magari sono passettini, è anche un ottimo allenamento con argomenti, prove, fatti messi uno dopo l'altro. Io penso che ciascuno debba e possa rivendicare il proprio spazio. Sì, mi permetto solamente di osservare su questo, senatrice, che poi però quando ti, innanzitutto c'è da tirare in mezzo gli avvocati, quando ti trovi in un'aula di tribunale poi i tempi italiani sono quello che sono e quindi magari inizi e sai quando, non sai quando finisci, no? È un po', c'è un po' anche allora. Questo sicuramente, e quindi mi scusi chiudo, e quindi alla fine preferisci ovviamente e direi naturalmente un'offerta dall'estero più che starte nella e dover aspettare 5 anni un eroico no? Ricercatore a Firenze che ha raccontato tutto questo, se lo ricorda, senatrice? A dire il vero no. Ma mi immagino che sì. Ce ne sia eroico perché appunto ha svelato tutto il sistema baronaggio. Ma la cosa straordinaria che mi piace del sistema pubblico è che si possono svelare queste cose, quindi adottiamo questi strumenti. Io sarò sempre con questi ricercatori. Ma attenzione, no, che l'università, qua ci sono i casi, non è così, no, in ogni ambito, in ogni situazione, quindi attenzione anche a veicolare il messaggio che i ricercatori che abbiamo emergono, no, da valutazioni non competitive. No, stiamo dicendo esattamente il contrario, chissà che cosa ne pensano anche i nostri ascoltatori. Sì. Sentiamo un paio di voci ancora, va, sentiamole. Tante eccellenze individuali non fanno l'eccellenza del sistema. È come una squadra di calcio. Se una squadra di calcio fosse composta da tanti campioni e solo campioni, quella squadra sarebbe un fallimento. È il sistema invece che va reso eccellente, cioè che faccia funzionare ogni singolo individuo. Parlo da fidanzata di un ricercatore che in questo momento è a Washington DC e rientrerà probabilmente fra un anno. Spero se riuscirà a trovare qualcosa qui. E quello che l'eccellenza nostra italiana, che col fatto che diamo talmente poco a questi ricercatori, come consuetudine dell'italiano medio, l'arte di arrangiarsi con quel poco che si ha li rende straordinari questi ricercatori. Bertolucci, sì, è vero, quello che diceva lei, no? Sì, è abbastanza vero, ma io sono assolutamente d'accordo che al di là dei casi bisogna è un problema strutturale che parte sempre dal riconoscimento strategico dell'importanza in una società della conoscenza, dell'educazione, della ricerca, di tutta la filiera. In Italia questo viene spesso dimenticato, un po' perché viene dato... Ma i privati contribuiscono alla ricerca, professor Bertolucci? Molto poco, perché la nostra struttura industriale e produttiva è basata soprattutto sulla piccola e media industria, che non riuscendo a fare massa e essenzialmente abbastanza networking non investe poi in ricerca. Noi abbiamo scarsi fondi pubblici, ma abbiamo ridicoli fondi privati messi nella ricerca. Siamo un fanalino di coda in Europa, perché manca questa visione strategica, che non è una visione buonista. È una necessità, perché altrimenti tutto il nostro sistema di welfare, tutto il nostro sistema di lasciare un mondo migliore per i prossimi 30 anni, piano piano se ne va. È un problema grave, è un problema che va affrontato in maniera strutturale, non c'è la bacchetta magica, ci vogliono gli anni per mettere a posto queste cose. Ma bisogna partire, bisogna creare infrastrutture. Noi abbiamo un'enorme fuga, la chiamiamo fuga dei cervelli. Sì. Il fatto che i nostri giovani ricercatori vadano all'estero è ottima, è un'ottima cosa, sì. A patto che noi riuscissimo a attrarre altre eccellenze. Ma è quello il tema, no, Bertolucci? È il saldo il tema, cioè non è tanto la fuga dei cervelli quanto quanti cervelli riusciamo ad attrarre a far venire nel nostro paese. Ma se non ci sono infrastrutture, perché un'eccellenza tedesca o francese o ucraina deve venire in Italia, non deve andare invece a Fraunhofer o in altre parti? E queste, di nuovo, non sono cose che si fanno con la bacchetta magica. Ci vuole pazienza, ci vogliono buoni investimenti, ci vuole un sistema che lasci gli enti di ricerca, le università, libere di fare la loro cosa e valutate. E poi ci vuole una comunità, perché i ricercatori vanno dove altri ricercatori ci sono. Io so per esempio che in Emilia Romagna adesso c'è grande attesa perché dovrebbe trasferirsi lì l'Agenzia per il Clima, no? Quella che era prima in Gran Bretagna. E questo crea un circuito virtuoso, no? Di scienziati, studiosi. Sì. Esattamente quello. Insomma, l'arrivo del centro meteorologico per previsione a breve e medio termine ha generato tutta una catena di altri benefici nella ricerca. Ci verrà sempre nella stessa zona il primo pre-exascale computer in Italia, che sarà uno dei maggiori calcolatori d'Europa, uno dei primi al mondo. Questo genera, attira talento, attira persone, attira strategia. No, noi siamo un popolo di tattici, ma abbiamo una difficoltà enorme a considerare che ci sono certe cose come la ricerca, l'educazione, che sono bipartisan. Uno non può ogni volta che c'è un cambio di governo cambiare, rifare una riforma della scuola, rifare una riforma dell'università, una riforma della ricerca. È demenziale. Cioè, questo poi è un grande tema, Bertolucci, lo dico anche alla senatrice Cattaneo, che insomma non eletta, ma in quanto senatrice a vita si trova là, insomma è nelle sedute parlamentari, l'avrà visto, senatrice Cattaneo, ogni governo che si insedia dice adesso investiremo di più in ricerca, rimetteremo a posto il sistema. Poi è vero anche che fuor divulgata a stanziamento nel 2018 l'incremento di risorse c'è stato a tutti gli effetti. Poi però, insomma, vedere tutto questo che no, entra nel sistema è un po' più difficile, senatrice. Ma sono incrementi comunque insufficienti, che partono da un sottofinanziamento ormai cronico, e invece bisognerebbe veramente trovare il modo di alimentare le idee migliori del paese, ma questo si fa con un piano che deve essere pluriennale, che sopravviva ad ogni cambio di governo, no? Che ci sia. Questo sì dovrebbe essere, come dire, sì, la missione di tutti coloro quali seguono in Parlamento, no? Perché tanto scuola e ricerca non appartiene alla destra, alla sinistra, alla Lega, al Partito Democratico, appartiene al paese. Glielo dica, senatrice, lei che può, lei che sta lì. Adesso siamo in un momento in cui c'è un nuovo ministero, il ministro ovviamente ha esperienza ultradecennale nel campo. Sì, perché è il rettore della Federico II di Napoli. Sì. È il presidente della CRUI, della conferenza dei rettori. Quindi noi abbiamo 72 università, 50 IRCCS, quindi sono gli ospedali come lo Spallanzani che fa ricerca. Sì. Abbiamo decine di enti di ricerca, tra cui il CNR, con tanti istituti e dipartimenti. Insomma, abbiamo un potenziale veramente in tutto il paese straordinario, ma noi dobbiamo capire come vogliamo investire nelle idee. Per me c'è solo una pubblicità. Ovviamente piano pluriennale, e i soldi, che siano posizioni o soldi per fare la ricerca, devono essere assegnati esclusivamente su base competitiva. Con valutazioni in itinere, questo è il punto. Allora, senatrice Cattaneo, la dobbiamo salutare. Grazie a Elena Cattaneo per essere stata con noi. Grazie al professor Sergio Bertolucci. Grazie, cara Maria. Ci sentiamo domani alle 8:20. A domani, Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in redazione, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Per quanto ci riguarda, invece, ci risentiamo alle 6:30 da Simone Spezia. Ciao a tutti. Ciao.